Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente partiremo dall'Europa e dal primo incontro post-elezioni britanniche e una Gran Bretagna attraversata da una profonda instabilità nella maggioranza politica che dovrebbe sorreggere Theresa May. Sappiamo e sapevamo, l'abbiamo raccontato, che la Gran Bretagna si presentava a questa partenza dei negoziati per la Brexit con Bruxelles in una posizione di debolezza, per quanto però formalmente risulta a Bruxelles, le posizioni di Londra non sono cambiate rispetto a quanto affermato dalla May lo scorso 29 marzo, quando notificò l'intenzione britannica di lasciare l'Unione Europea, attivando l'articolo 50 del trattato, e annunciò la cosiddetta hard Brexit, cioè un'uscita dura, senza molti compromessi, quindi in cui la Gran Bretagna e il Regno Unito avrebbe lasciato non solo l'Unione Europea ma anche il mercato unico e l'Unione Doganale Europea, mentre sappiamo che dopo la sconfitta elettorale e il ridimensionamento elettorale vari esponenti anche dei conservatori, penso a Osborne, hanno detto sostanzialmente attenzione, l'Unione Doganale si può tenere. Però, su questa è la posizione formale. Domani arriverà anche il cosiddetto decalogo, insomma le indicazioni per come spostare da Londra, questo è abbastanza certo, le due istituzioni comunitarie che hanno sede a Londra, quindi Autorità Bancaria Europea e Agenzia Europea per i Medicinali, su cui punta molto Milano. Di questo parleremo in apertura. Appunto, ufficialmente sono partiti i negoziati. E ripeto, sempre ufficialmente, da questo punto di vista, la posizione britannica resta quella del 29 marzo. Poi, all'interno di questo, sappiamo che dopo il risultato elettorale, la profonda difficoltà in cui versa Theresa May, non solo per via del risultato elettorale, ma anche perché questo è stato influenzato dalla politica sulla sicurezza, c'è la polemica in corso per la tragedia che della scorsa settimana, ma è indubbio che tutto un insieme di elementi portano a dire che Theresa May sia molto molto traballante, lo dicono gli stessi osservatori inglesi, quanto tenuta del governo. Però oggi le dichiarazioni, il ministro britannico David Davis ha detto iniziamo con tono positivo e costruttivo e quant'altro, ne parleremo subito in apertura. Poi invece il debutto ufficiale dell'APE, dalla Gran Bretagna andiamo proprio all'Italia, l'APE sociale, l'anticipo pensionistico previsto per le persone di 63 anni che rientrano nelle categorie socialmente deboli, che sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. Ad oggi le domande erano 5.300 alle 15.30 di oggi. Lo ha fatto sapere la stessa INPS, 3.500 per la precisione le domande di accesso all'APE sociale, 1.840 di accesso al pensionamento in quanto pensionamento anticipato in quanto lavoratori precoci. Infine chiuderemo sull'andamento economico del paese, perché oggi si è tenuta l'assemblea annuale di Confesercenti e sarà l'occasione per parlare del mondo del commercio, dopo che è stato ricordato presentando una ricerca Eurescher proprio per Confesercenti che negli ultimi 10 anni di crisi, da quando è iniziata la crisi, praticamente a ottobre del 2018 festeggeremo, si fa per dire, i 10 anni di questa crisi, che come abbiamo detto più volte non è solo una crisi, non va confusa con la crisi finanziaria 2008-2010, è molto di più, è un cambio radicale, una rivoluzione in corso. Comunque 600.000 imprenditori spazzati via, dice la Confesercenti, escludendo le libere professioni, dal 2007 ad oggi imprenditori, lavoratori in proprio e collaboratori familiari sono passati da 4.300.000 a 3.700.000, abbiamo perso 81.000 imprenditori in senso stretto, 78.000 lavoratori in proprio con dipendenti e 336.000 lavoratori senza dipendenti, nonché 108.000 coadiuvanti familiari. E stima la Confesercenti nella ricerca che arriveremo ai livelli pre-crisi solo nel 2020. Io aggiungo, a quel punto, tra virgolette, chi se ne frega, perché tanto se tu sarai vivo se tu sei riuscito a superare questi 12 anni, nel 2020 sei già una cosa diversa dal 2007, quindi dire che sei tornato ai livelli pre-crisi è solo un esercizio statistico, perché la tua attività è comunque già cambiata e il tuo modello di lavoro e di business è già cambiato radicalmente se sei sopravvissuto a quello che è successo e se sarai sopravvissuto nel 2020 a quello che è successo in questi 12 anni. Poi chiede un patto per i salari. Faremo ascoltare anche Calenda, che ha detto: attenzione, la priorità è tagliare le tasse alle imprese, non all'IRPEF, specificando perché. E poi ha detto alle imprese: non abbiate una legge simbolo, ma abbiate dei contenuti, altrimenti vi fanno fessi da 30 anni. Perché dire che ci sarà un tavolo, una legge, uno statuto, il modo in cui vi fanno fessi da 30 anni, così si riempie lo spazio di una conferenza stampa e delle agende, ma non succede nulla. Ne parleremo ampiamente con la presidente, neopresidente di Confesercenti dopo le 18, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta del programma video anche sul sito, oltre che della radio, anche su Facebook. Partiamo come sempre dalla borsa, dove oggi attenzione, perché sia Terna che Poste Italiane staccano una cedola, il dividendo, scusatemi. A Milano pesa per uno 0,12% complessivamente, però attenzione, il valore dell'indice è già depurato, più 0,60, Milano più 1,14, Parigi più 1,20, Francoforte più 0,90, Londra più 0,50 in questo momento Dow Jones. Dicevo, staccano i dividendi le Poste Italiane, ecco perché abbiamo un calo del 6,25%, Terna meno 1,76%, stacca il dividendo anche Xor, che guadagna però lo 0,20%. Sul fronte di chi guadagna, ST Microelectronics più 2,80%, Campari più 2,60%, Prismian più 2%, come Banco BPM e Ferrari. L'1,80% lo guadagna Brembo e Unipol-Sai, e Fineco Bank, l'1,5% Luxottica, Italgas e Unipol. Fronte internazionale, l'oro e il petrolio. L'oro è fermo a 1248 dollari l'oncia, e il petrolio resta bassino rispetto all'attesa dell'OPEC, sempre fermo intorno ai 44 dollari, 44,6 dollari al barile, 5 dollari per quello che riguarda il WTI. Restando però sull'economia internazionale, oggi sappiamo, l'abbiamo già raccontato, che Yahoo, quello che era un ex colosso, non esiste più. Dopo la cessione a Verizon di alcuni asset fondamentali come Yahoo Sport, Yahoo Notizie, Yahoo Finanza, da oggi ufficialmente, comunque anche come motore di ricerca, si chiama Altaba, e sono scambiate con un simbolo WABA sul Nasdaq. Il titolo sale comunque del 4%. Passando all'Europa, torna a salire la produzione edilizia nella zona euro d'aprile, ma crolla in Italia. C'è un calo record, meno 4,1% in Italia, il dato più basso dei 19 paesi dell'euro, mentre la produzione era a marzo meno 1,1% nella zona euro e più 0,6% in Italia. La produzione dell'edilizia è salita invece in Svezia di quasi 4%, in Francia del 3,5% e in Repubblica Ceca dell'1,6%, è scesa moltissimo in Romania meno 7,8%, in Ungheria meno 3%, oltre che appunto in Italia. E anche l'Istat certifica che è il risultato peggiore a partire da gennaio. Il calo tendenziale raggiunge addirittura l'11% sull'anno prima. Venendo a questo, poi oggi il Premier Gentiloni ha detto: insomma, abbiamo un'occasione straordinaria rappresentata dal fatto che l'andamento economico dell'Europa è migliore del previsto e l'Italia, seppure fatica, si è agganciata a questo andamento. Ma non dobbiamo perdere questa occasione, bisogna proseguire l'impegno di spingere sulla crescita del mercato interno dei consumi, è una crescita più incoraggiante delle previsioni. E poi ha aggiunto, Gentiloni partecipava alla cerimonia della posa della prima pietra di una scuola ecosostenibile nel comune di Pesaro, e ha detto attenzione, per gestire l'efficienza energetica non c'è solo il fattore climatico ma anche la crescita del mercato interno, e ha detto gli investimenti pubblici sono fondamentali per il mercato interno. Siamo tutti d'accordo con il premier Gentiloni, il problema è che in questi anni gli investimenti pubblici sono calati mentre il debito no, e quindi continuiamo a spendere troppo di spesa corrente e poco di investimenti, molto banalmente. Comunque, Gentiloni sugli investimenti. Io devo dire con una certa fiducia, speranza, ancora presto per dire soddisfazione, che vediamo negli ultimi mesi, dopo un periodo di difficoltà degli investimenti pubblici, segnali di ripresa. I segnali di ripresa negli investimenti pubblici sono fondamentali. Noi abbiamo una crescita che è più incoraggiante di quelle che erano le previsioni, ma per dare a questa crescita lo slancio che è necessario serve la forza degli investimenti pubblici, e questa qualità energetica, questo meccanismo del conto termico che ci è stato illustrato può essere uno dei fattori trainanti di una stagione migliore degli investimenti pubblici. Andiamo ancora a due notizie in breve per quello che riguarda l'Italia, poi gli altri saranno appunto approfondimenti del programma. È Paolo Lamberti, il nuovo presidente di Federchimica, 65 anni, amministratore delegato del gruppo chimico Lamberti. Succede a Cesare Puccioni, non più eleggibile dopo aver guidato Federchimica per 6 anni. Oggi nel presentare appunto il neo presidente sono anche stati diffusi i dati abbastanza incoraggianti per la chimica italiana. La crescita della produzione si avvicina al 3%, brilla l'export più 9,5%, soprattutto nei paesi extraeuropei come Cina più 34% e più 20% in Russia. Faccio notare che la chimica italiana, di cui ammetto ci occupiamo anche poco o troppo poco, ha un valore della produzione vicino ai 52 miliardi, questo è il dato nel 2016. Dicevo ancora due notizie. La prima riguarda le banche venete. Si continua a lavorare per una soluzione sostenibile. Lo ha detto il portavoce del Presidente della Commissione Europea, e quindi il portavoce di Jean-Claude Juncker. Soluzione sostenibile. La Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e le autorità italiane stanno lavorando fianco a fianco per una soluzione sostenibile in linea con le regole europee. As regards the situation of Banca Popolare di Vicenza and Veneto Banca, the European Commission. Per ciò che riguarda la situazione della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, la Commissione europea, la Vigilanza Unica sulle Banche e le autorità italiane lavorano assieme. È in corso un dialogo costruttivo per riuscire a trovare una soluzione praticabile che sia in linea con le regole europee. A questo proposito, si sono fatti buoni progressi. And good progress is being made in this regard. E l'ultima notizia riguarda invece la classifica dell'università. Ne abbiamo già parlato per la classifica mondiale 2 settimane fa. Oggi c'è un'altra classifica. La realizza il Financial Times per valutare i master, però in Science of Science in Finance, i master in finanza, e quindi una classifica diversa che riguarda chiaramente le facoltà che chiamiamo noi di economia e commercio e finanza. E la buona notizia è che la Bocconi di Milano è settima al mondo per la laurea in finanza, migliore di 2 posizioni nel ranking, quindi dal 9° al 7° posto. A dominare la classifica però sono le università francesi. Lo dico perché uno potrebbe pensare all'università del mondo anglosassone, stiamo parlando della classifica solo per la diciamo la laurea in finanza, e la prima è l'EDEC Business School, che ha sede a Lille e a Nizza, conquista per la prima volta il primato, supera l'EC di Parigi che scende in seconda posizione, poi l'ESSEC Business School SP Huop, Scam Business School, terzo, quarto e sesto posto, e poi l'MIT, l'americano MIT Sloan School of Management, è il quinto posto e la Bocconi al settimo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina appunto di Focus Economia sul sito di Radio 24. Non laurea ma master, sì, è un po' più ambigua, mi scrive un ascoltatore della classifica, perché da un lato parla di Global Master in Finance, però in altri casi è il corso, il programma valutato è il corso di laurea magistrale in finanza, diretto da Massimo Guidolin, per quello che riguarda la Bocconi. Comunque insomma, e vanno a guardare anche tra i criteri, lo dico chi mi sta scrivendo, la capacità di trovare un impiego, di placement dei laureati, cioè quanto ci mettono poi le persone che si laureano e la loro retribuzione. E tra l'altro il fatto che il 97% dei docenti di questo master possegga un PhD, secondo loro è il segnale dello stretto legame tra l'insegnamento e la ricerca più avanzata. Ma venendo invece al primo tema, ricordando appunto 349-238-6666 come SMS, WhatsApp per la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24 e la diretta video del programma, andiamo al primo tema. Sono partiti ufficialmente i negoziati per la Brexit. Con oggi diamo il via ai negoziati per un ritiro ordinato della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Dobbiamo affrontare le incertezze causate dalla Brexit per i cittadini, per i beneficiari delle politiche europee e per la questione delle frontiere, in particolare quelle irlandesi. Così appunto il capo negoziatore europeo dell'Unione Europea, Michel Barnier, quando ha accolto il ministro britannico David Davis. Spero che vi sia un'apertura costruttiva come risultante dai colloqui. Davis ha detto sì, iniziamo con tono positivo e costruttivo, però la Banca Centrale Europea, lo ha detto il capo della vigilanza Daniel Nui, parlando alla Commissione Economica del Parlamento Europeo, preparerà le banche dell'area euro anche allo scenario di hard Brexit, cioè di uscita dura, anche al peggio. E Angela Merkel, parlando della trattativa, era a colloquio col presidente rumeno Klaus Iohannis, ha detto insomma è importante che i 27 procedano in modo uniforme e ascoltino attentamente i desideri e le idee della Gran Bretagna. Tuttavia noi 27 formuleremo in modo chiaro e insieme i nostri interessi. Adriana Ceretelli in collegamento da Bruxelles, buonasera Anna Mitica. Buonasera. Dunque, vediamola così, nella settimana scorsa e anche subito dopo le elezioni britanniche c'erano state dei commenti un po' maliziosi, li avevo definiti, da Schäuble ma non solo, anche Juncker, dicendo beh noi adesso saremmo comprensivi con la Gran Bretagna, adesso avremo... Speriamo che la Gran Bretagna mantenga le sue posizioni, perché tutti si sono resi conto che dopo le elezioni Theresa May è in estrema difficoltà. Non voglio neanche citare quello che è successo in me come tragedia la scorsa settimana, ma è indubbio che la Gran Bretagna stia conoscendo, non dico l'annus horribilis, come definì, che fu una definizione di anni fa della regina Elisabetta, ma insomma, tra attentati, calcolo sbagliato elettorale di Cameron prima sulla Brexit e della May dopo sulle elezioni anticipate, più adesso tutte le polemiche, oggi ahimè anche il tema dell'attacco alla moschea, ma sono tutti temi di ordine pubblico. Li cito solo perché è innegabile che il governo britannico, Adriana, sia arrivato oggi alle negoziazioni con una debolezza che forse nessuno immaginava nemmeno un anno fa. No, certamente, e sicuramente prima di tutti Theresa May, che infatti ha lanciato l'idea delle elezioni anticipate proprio direi con la sicurezza di vincerle dall'alto di un distacco che la separava dai laburisti per oltre 20 punti. Invece ha perso secondo me perché ha sbagliato campagna elettorale, più che sulla Brexit, sulle questioni sociali. Secondo me l'ha sbagliata perché ha dimostrato di non essere in sintonia con gli umori del paese, che anche sulla Brexit erano cambiati, cioè in definitiva non ci dimentichiamo che Brexit un anno fa è stata votata un po' così alla carlona, senza sapere esattamente dove avrebbe portato Brexit. E adesso che si comincia a scoprire, naturalmente la gente ci comincia a ripensare. Sì, tu fai bene, fai bene a citare la demenza, cioè gli errori in campagna elettorale, la tassa sugli anziani, che ha creato un... Però, ed è vero che lei ha fatto una campagna elettorale, secondo quello che abbiamo tutti letto e visto, molto fredda, freddina, cioè, da me non è certo un mostro di empatia, mettiamola così. Però io ho avuto la sensazione, come abbiamo detto alcune altre volte anche con Leonardo Maisano, che un popolo come quello britannico, molto pragmatico, già la Brexit è passata, sappiamo, più nella provincia che non nelle grandi città, nei grandi nuclei urbani. Dopo un anno sono ancora al punto di prima, cioè ancora noi non sappiamo che tipo di Brexit ha in mente la Gran Bretagna, e forse questo, oltre a errori di altro genere in campagna elettorale, ha creato delusione e quindi anche voto negativo. Cioè, in un anno non è successo ancora niente, tante dichiarazioni, ma ancora noi non sappiamo che cosa abbia in mente la Gran Bretagna. Sì, ma questo per certi versi è un problema degli inglesi. Quello che dicevo, il Brexit un anno fa è stata votata da dei sonnambuli che non sapevano esattamente dove andavano a parare. Lo stesso Boris Johnson, poi divenuto ministro degli esteri, la sera prima del referendum dichiarava a un gruppo che glielo chiedeva: se ci va bene speriamo di perdere con il 48-49%, mai più si immaginavano di vincere e sono stati sorpresi tutti dalla loro vittoria, da qui questo disorientamento. Sono d'accordo che un anno dopo è assurdo essere ancora qua a interrogarsi, eppure lo è possibile, perché poi la May ha sbagliato pure la scommessa elettorale e dunque sono ancora più disorientati. Oramai si erano orientati verso una Brexit dura, invece il responso del paese non è stato questo, e quindi ancora una volta si devono ricalibrare e presentarsi, come dicevi, molto più deboli al tavolo negoziale. Per questo David Davis, che non ci dimentichiamo è uno degli irriducibili del Brexit duro, si ritrova a parlare con tono costruttivo e a dire: vogliamo una partnership speciale con l'Europa, che però non si sa bene che cosa sia. Però io credo che a questo punto la questione non sia tanto quella di che tipo di Brexit, che il tipo di Brexit riguarda più che altro gli inglesi. Secondo me quello che ci deve interessare di più in questo momento è che tipo di Europa 27 vogliamo costruire. Ed è qui dove secondo me il responso del weekend, con una maggioranza più ragionevole per Macron, ha dato un segnale secondo me più positivo di quello che sarebbe stata una maggioranza trasbordante, nel senso plebiscitaria, perché in fondo nelle democrazie secondo me è meglio sempre che ci siano degli equilibri più che degli strappi trionfalistici di diverso tipo. E allora secondo me oggi dobbiamo naturalmente aspettare cosa vogliono gli inglesi, negoziare nei tempi eccetera, sapendo però che alla peggio in ogni caso tra due anni se ne usciranno così ai termini del trattato. Io non credo che alla fine finirà male, perché non è neanche nell'interesse dell'Europa rompere con gli inglesi male, però certamente io credo che passata la stagione elettorale la priorità delle priorità per gli europei a 27 è quella di cercare un disegno per il proprio futuro, un futuro diverso, perché l'unione così larga si è dimostrata ingestibile, ma un'unione che sia in grado di funzionare, che sia efficiente, perché Brexit da una parte ha dimostrato che così com'è l'unione non va, Trump ti sta a dimostrare che gli equilibri del mondo, NATO, sicurezza, transatlantica e compagni oggi non sono più certi come ieri, in più abbiamo il bravo Putin che è sempre lì alle frontiere e non si sa bene che intenzioni abbia, abbiamo le solite instabilità, inutile fare l'elenco, quindi in sostanza l'Europa va rifatta per non subire i disordini e gli squilibri degli altri. E i ricatti degli altri. Vediamo, allora, dopo il meteo vorrei ancora sentirti su questo, perché se ho ben capito il tuo ragionamento, mettiamola così per essere ancora più maliziosi, non vorrei che, siccome la Gran Bretagna adesso, il Regno Unito è in difficoltà e siccome si presenta alla sfida della Brexit, alle negoziati per la Brexit, più debole di quanto non immaginassimo un anno fa, questo è innegabile, lo dico a chi scrive, non è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto, il dato elettorale è abbastanza inequivocabile su questo. Il rischio è che l'Europa si pavoneggi o gigioneggi un po' su questa posizione un po' più di forza e non si preoccupi dei suoi problemi interni, che non si chiamano solo Gran Bretagna, ma si chiamano che cavolo di nocciolo duro riesce a fare, visto che perfino, aggiungo io, nella ricollocazione dei migranti l'Europa non esiste e non riesce ad avere una posizione forte con i paesi dell'est che si rifiutano di fare quello che è stato sottoscritto dai paesi europei, cioè il ricollocamento dei migranti. E che tipo di Europa vuoi di fronte alle sfide di politica estera? Ecco, non vorrei che tutta l'attenzione sulla Brexit e vedere la Gran Bretagna in difficoltà facesse pensare, vabbè, tanto abbiamo superato il grosso dei nostri problemi. No, i problemi europei sono ancora tutti lì. E vorrei capire in che direzione si va dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Dottor Jay e Mister Eye. Trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8. jaygalileo.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Brisoni e Adriana Ceretelli. Qualcuno mi contesta le dichiarazioni di Adriana Ceretelli e che hanno, gli inglesi hanno votato come dei sonnambuli, altri se la prendono con me perché ho detto il voto della città della campagna, ma non ho mica detto in maniera offensiva, ho detto solo che Londra ha avuto una maggioranza di no alla Brexit e invece nelle campagne britanniche, andate a vedervi le mappe del risultato, c'è stato la parte più forte di sì alla Brexit. Il tema però mi sembra un altro, se posso dire, cioè, più che occuparsi degli inglesi, che problemi ne hanno, adesso vedremo cosa vogliono fare, che tipo di approccio vogliono tenere. Guardate che non c'è poca differenza tra hard e soft Brexit, perché in ballo ci sono, per esempio, tutta, non solo l'uscita dall'Unione Europea, ma anche l'uscita dal mercato unico, l'Unione Doganale Europea. Ricordavo che l'ex cancelliere dello scacchiere Osborne, importante leader del movimento conservatore, ha detto: è una follia andare alla hard Brexit, dobbiamo tenerci almeno l'Unione Doganale Europea. Non sono temi di poco conto capire quale sarà, diciamo, la forma che adatterà la Brexit. Però con Adriana Ceretelli stavamo ragionando dell'Europa, che ci interessa un po' più da vicino, e sul rischio che, complice la debolezza britannica, adesso uno possa pensare, vabbè, l'Europa c'è. No, Adriana, l'Europa è ancora enormi difficoltà a stare assieme in questa Formula 27, e se voglio essere contrariamente malizioso, penso che domani, quando usciranno i criteri con cui i vari paesi si possono candidare per aggiudicarsi autorità bancaria europea e agenzia del farmaco europea, vedremo quanto, diciamo, all'interno dell'Europa si possa fare concorrenza. Assolutamente sì, già si sa che i criteri sono stati concepiti apposta per favorire i paesi del nord, quelli con maggiori infrastrutture, un sistema paese più efficiente, insomma le solite cose che tra l'altro denunciano implicitamente molte delle lacune italiane. Ma comunque, a prescindere, diciamo, dalla questione sedi europee, che certamente ci affascina perché vorremmo tanto avere l'agenzia del farmaco e speriamo per carità di riuscire ad averla, ma i problemi dell'Europa oggi vanno purtroppo molto al di là. C'è il problema del rafforzamento dell'Eurozona e non si sa come si riuscirà a fare. Certamente la Francia di Macron dovrà prima riformare e modernizzare la Francia, cioè in sostanza creare le premesse per una maggiore convergenza con l'economia tedesca, in modo tale da poter avere un dialogo da pari a pari. Oggi non c'è questo dialogo, oggi purtroppo la Francia è scivolata molto indietro rispetto alle performance economiche della Germania. Al tempo stesso c'è il problema sicuramente della politica migratoria di cui parlavi, non si può immaginare che l'Italia continui ad essere, come dire, un porto di mare aperto all'immigrazione senza che questa non venga redistribuita a nord. in qualche modo naturalmente. Oggi però sappiamo bene che le frontiere nostre sono più o meno chiuse e l'accordo con la Turchia blocca i flussi verso il nord, quindi ci troviamo in una posizione molto difficile e questa sarà un'altra delle grandi sfide del futuro prossimo. La terza è quella di una politica di sicurezza e di difesa comune, quello che dicevo prima, cioè in un mondo che diventa più incerto, l'America meno meno attenta al rapporto transatlantico, ci costringerà in qualche modo ad assumerci delle responsabilità che finora abbiamo fatto finta di dimenticare. Insomma, solo questi tre dossier sono dei dossier immensi. Poi c'è l'unione bancaria incompleta, senza la quale la ripresa dell'Eurozona e la stessa riforma dell'Eurozona sarebbe impossibile. Insomma, diciamo, ce n'è di carne al fuoco quanta se ne vuole. Sì, ecco, guarda, io certamente Brexit è un enorme problema. Però ce ne sono. Lo dico anche per rispondere a alcuni ascoltatori. Nessuno sta dicendo che adesso la Gran Bretagna sia in ginocchio. Abbiamo solo detto che con quello che è successo si presenta meno sicura delle sue posizioni di quanto non fosse un anno fa. E ancora, lo devo dire con massimo rispetto per un paese che adoro, in Gran Bretagna in un anno noi non abbiamo capito che cosa vuole, cioè non è mai arrivata un'indicazione precisa, usciamo da tutto. Sì, la May l'ha detto a marzo, ma adesso la May non sa se resta lei. Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, avete pazienza, è in bilico, è traballante ogni giorno più che passa, può dire quello che vuole, ma se i conservatori le fanno la fronda, questa va giù come in qualunque democrazia, se non hai più l'appoggio del tuo partito. Però io concordo pienamente, per non dire poi non ce l'avete detto, che il rischio per l'Europa, a me interessa l'Europa in questo caso, è di adagiarsi su questa maggiore debolezza britannica e non ricordarsi che la Brexit è arrivata anche per questa enorme frammentazione e incapacità europea di tenere assieme i vari paesi, per questa sensazione che l'Europa, la sensazione lo dico, è un eufemismo, sia a guida tedesca dei paesi del nord e quant'altro, e tutti i casi che citava Adriana vanno in questa direzione. Ripeto, a noi poi colpisce sempre che sul deficit e rispetto dei parametri lì partono le sanzioni, se non accogli i migranti, anche se ti chiami Ungheria, Repubblica Ceca e quant'altro, non succede niente. Per cui l'Europa deve trovare un modo per stare assieme e quello che diceva prima Adriana Ceretelli, anche valutare se non abbia senso tornare un nocciolo duro, Adriana, perché adesso con tutto il bene che voglio i paesi dell'est, questi sono arrivati da poco, li abbiamo integrati, li abbiamo accolti, e quanti immigrati dall'est Europa abbiamo avuto anche in Italia, Dio solo lo sa, adesso si permettono di fare quegli spocchiosi, no, noi non vogliamo, teneteveli voi a casa vostra. Per cui forse anche l'idea di un nocciolo duro europeo andrebbe riscoperta, no? Ma sicuramente l'Eurozona probabilmente potrebbe essere, diciamo, il fulcro intorno al quale ricostruire l'Europa, però io certamente voglio dire, innanzitutto adesso stanno cominciando a promettere sanzioni, quindi probabilmente sì, i paesi dell'est avranno sanzioni, però secondo me i paesi dell'est non sono il vero problema. Il vero problema siamo noi, siamo quelli che sono dentro l'Eurozona. Siamo noi che dobbiamo convergere, è l'Italia che deve ritrovare la stabilità, uscire dalla confusione politica nella quale sta dibattendosi in questi mesi. Cioè ci sono dei problemi sacrosanti, insomma l'est europeo è importante, ma se si guarda, diciamo, il grosso dell'Europa non è così importante. Poi secondo me c'è un altro fatto, Trump, con il fatto che insomma pare più tiepido sulla solidarietà interatlantica, costringerà i paesi dell'est a riavvicinarsi all'Europa, certo, e quindi a scendere a più consigli. Quindi secondo me la variabile est è una variabile più o meno destinata a risolversi, e finiranno anche a prendersi un po' di migranti. Loro, a dire le cose onestamente, rinfacciano all'Europa che siamo noi il fatto che hanno accolto la Polonia, oltre 1 milione di ucraini, e naturalmente l'Europa non li ha accolti a sua volta, né redistribuiti. Allora loro dicono: perché voi non tenete conto degli immigrati che noi abbiamo preso? Quindi insomma, come al solito, la verità è in chiaroscuro e l'Europa è molto complicata da seguire. Quindi però appunto io sono sempre stata convinta, e lo resto, che il problema vero è la vecchia Europa, intendo l'Europa, cioè i paesi fondatori, i paesi fondatori, fondatori allargati, perché siamo noi che non abbiamo ancora convergenze su quello che vogliamo fare, gli altri seguiranno, sono più o meno piccoli, non hanno un peso specifico. Cioè tu dici Francia, Germania, Italia e Spagna, diciamo, per sì, citare sono principi, quelli che possono fare da traino. Ma tra tutti siamo noi oggi il problema, perché c'era la Francia che era il grande malato, diciamo, non dichiarato. Adesso e siamo adesso rimasti pare noi. Pare che abbia comunque, diciamo, una chance di beh, diciamo che quanto a solidità politica piace o non piace Macron, questa la Francia se l'è data. È inutile girarci attorno. Dai. Quindi rimaniamo noi. Restiamo la noi col cielo in mano. In qualche modo con Rajoy se la sta cavando. E poi la Spagna ha i tassi di crescita. Alla grande e siamo noi che purtroppo abbiamo un'instabilità politica strisciante, abbiamo una situazione economica preoccupante perché non cresciamo abbastanza per sostenere il debito. Soprattutto se un giorno Draghi, come inevitabilmente succederà, deciderà di cambiare politica monetaria espansiva. Grazie anche alla mitica Adriana Ceretelli. Vado sul traffico, poi la borsa e gli altri temi di questa puntata. Parleremo dell'APE, l'APE che è partito sabato. E chiaramente poi anche nel mondo del commercio, oggi l'assemblea di Confesercenti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faircam & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com. Vi presento Focus Economia. La borsa, dicevamo, per quello che riguarda Milano, al netto dei dividendi che hanno staccato Poste Italiane, -6,80%, Terna, -1,80%, Banca Generali, -0,70%, quindi non c'è dividendo, Moncler, -0,60%, Intesa, -0,5%, fronte opposto, Stima Electronics, +3%, Campari, +2,5%, Prismian, +2%, come Unipol Sai, Ferrari, +1,80%, Brembo, +1,60%. Mi scrive un ascoltatore: dedicate poco tempo alla borsa, a parte che abbiamo appena iniziato, però dipende, anche la borsa la facciamo sempre, poi quando c'è una giornata importante dedichiamo più tempo, delle volte ci sono giornate che si possono tranquillamente archiviare, non è che tutte le volte, però detto ciò, c'è Oconni nella Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Quanto pesa lo stacco cedole oggi sull'indice? Allora, sulla performance che vediamo, niente, perché quella è una performance già rettificata. Rettificata. Comunque, quindi più 0,35% è l'indice corretto. Comunque, mentre Parigi pesava, fa più 0,90, Francoforte più 1, Londra più 0,80. L'America per 0,12% comunque, quindi poca roba rispetto ad altre volte, in cui poi era arrivata a pesare anche più di un punto percentuale. Bene, andiamo adesso, Ceo, resta con noi perché ho il GR24, poi commentiamo alcuni titoli, diamo anche i migliori e i peggiori, poi gli altri temi di questa puntata. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Notte di lacrime, preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Una notte da paura, una notte di passaggio, una notte che è anche una festa. Insomma, una notte da vivere e da rivivere. È la notte prima degli esami. Sono Federico Taddia e insieme alla cantante Marianne Mirage vi aspetto martedì 20 giugno dalle 21 alle 24. 3 ore di voci, di sogni, di racconti, di maturandi, di testimonianze, di consigli, di attori, scrittori, artisti per prepararsi insieme all'esame di maturità. La notte prima degli esami. Una notte che è tutto un programma. Ovviamente su Radio 24. In collaborazione con Scuola.net. E ogni giorno sulla pagina web di Cuore e Denari un consiglio pratico per affrontare al meglio la prova. Notte. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. -18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'approfondimento di borsa. Allora, Ceo Condi, al di là dell'indice complessivo dell'effetto stacco dividendi per Poste Italiane e Terna, Oggi abbiamo visto ST Microelectronics recuperare dopo i cali della settimana scorsa più 3%, Campari più 2,5%, mentre sul fronte opposto ho visto che Saipem ancora soffre, poi ha recuperato, una giornata molto altalenante per Saipem, non si segnalano grossi scossoni su altri titoli, alla fine Saipem ha fatto più 0,24%. Allora, Campari da un lato, BPM che si è mossa bene tra le banche più 1,60% ed ST Microelectronics. Allora, per quanto riguarda Campari c'è un report di HSBC che insomma promuove il titolo, ma al di là di questo c'è un'opinione diffusa sul mercato, sul fatto che il mercato degli alcolici possa diciamo ripartire in maniera importante. C'è anche la convinzione che Campari, grazie ai propri marchi, fra i marchi si citano Aperol, Campari e poi il Whisky Wild Turkey, possa diciamo cavalcare questa ripresa. C'è anche grossa attesa diciamo sul fatto di poter far rivivere un marchio importante come quello di Grand Marnier. Per quanto riguarda invece Banco BPM c'è grande fervore ovviamente attorno al mondo delle banche, c'è la questione del salvataggio delle banche venete, oggi c'è anche il tema di Carige con il comitato nomine che dovrà nominare il nuovo amministratore delegato. Banco BPM cresce, comunque interpreta un ottimismo seppur cauto del mercato attorno a queste vicende e chiude a più 1,6%. Chiudevamo, se non mi sbaglio, con Saipem invece più 0,2%, come dicevi tu, una seduta comunque vissuta sempre in retrovia nonostante il petrolio fosse abbia chiuso comunque in rialzo. Certamente sul titolo c'è ancora scetticismo da parte degli operatori. Sì, andiamo, ripeto, chi mi scrive, ci sono giornate in cui la borsa ha più spazio, giornate in cui capitano meno cose. Dicevo, andiamo al Michieta di Mediaset. Mediaset oggi leggermente in salita, ho visto che Vivendi ha notificato le parti un ricorso al TAR contro la delibera della Agcom del 18 aprile scorso, in cui sulla base della legge Gaspari sui tetti nel settore media e telecomunicazioni, l'autority, la Agcom, obbligava Vivendi a scegliere se vuole controllare Telecom o se vuole controllare Mediaset. La dico male, ma insomma, questo era il messaggio. Mediaset oggi si è mossa, ma non in maniera, diciamo, particolarmente forte, no? Che ha fatto a fine chiude più 0,2%, anche perché la soluzione che sembra profilarsi al di là di questo ricorso, che è quasi diciamo pro forma da parte di Vivendi, è quella che comunque Vivendi si offre insomma di sterilizzare i diritti di voto di Mediaset eccedenti il 9% in modo da ottemperare quelle che sono le richieste antitrust, quindi insomma nulla di nuovo per il mercato. Migliori e peggiori in assoluto oggi, allora Gala più 22,6%, Giglio Group più 16%, Brioschi più 10%, La Doria più 7%, Fronte Opposto Visibile Editore meno 15%, WM Capital meno 13,30%, Caledo Group meno 6%. Grazie a Ciò Condi, a Radio Corriere sulle 24 ore. Noi, prima di arrivare al mondo dei consumi, dei commercianti, degli esercenti, oggi l'assemblea di Confesercenti, ci occupiamo dell'APE. L'APE è partito, l'APE sociale, l'anticipo pensionistico, ha fatto il debutto ufficiale sabato e oggi è il momento di fare già un primo bilancio sulle richieste, ricordando anche a chi si rivolge 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, 5.300, lo dice l'INPS, le domande tra indennità per l'APE sociale e il pensionamento anticipato dei lavoratori cosiddetti precoci. Questo era il dato alle 15.30 di oggi all'INPS. Nello specifico, 3.500 domande di accesso all'APE sociale, 1.840 domande di accesso al pensionamento anticipato per i precoci. Le caratteristiche, allora, la parte dell'APE sociale bisogna avere almeno 63 anni, almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale, aver finito di godere della prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi oppure assistenza almeno 6 mesi dal coniuge con o la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazioni di gravità. Invece per i lavoratori con mansioni gravose sono i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 64% e i lavoratori dipendenti che al momento della richiesta di accesso alla pensione sociale svolgono o abbiano svolto in Italia da almeno 6 anni in via continuativa una o più delle attività lavorative definite gravose. Si va dagli operai dell'industria dell'edilizia ai conduttori di mezzi pesanti, ai facchini, agli operatori ecologici, ed è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Poi ci sono anche i limiti, ma rivolgo le domande a Davide Colombo del Sole 24 Ore, che sta seguendo l'APE sul giornale. Buonasera Davide. Buonasera Sebastiano. La prima domanda te la faccio con ignoranza vera: non sono un po' poche le domande arrivate? Il dato che avevamo era quello delle 15.30 dell'INPS. Ma tieni conto che la procedura è totalmente informatizzata, per cui ci sta che ci voglia un minimo di tempo per fare partire questo canale, insomma. No, perché noi avevamo stimato, l'avevate fatto anche voi, sì, una platea potenziale per quest'anno tra i 60.000 persone, cioè di 60.000 persone, 35.000 l'APE sociale, 25.000 precoci. Esatto. Tieni conto che appunto ci sono due scadenze di riferimento. La prima è molto prossima, è il 15 luglio, e la seconda invece è il 30 novembre. Per chi matura i requisiti nell'arco dell'anno, soprattutto con una priorità per chi compie prima il 63° anno, a parità delle altre requisiti che ricordavi adesso. Per cui io penso che ci sarà poi una graduale crescita della domanda. Questo è una sorta di ammortizzatore sociale di ultima istanza, che ha una caratteristica abbastanza interessante: è sperimentale, durerà quest'anno e l'anno 21, poi vediamo se lo stabilizzano, lo rendono strutturale, però diciamo ha una caratteristica abbastanza interessante, perché chiude definitivamente la porta a eventuali ipotesi di ulteriori salvaguardie, di ulteriori aspiranti esodandi o esodati, e pone un canale di uscita garantito, una sorta di ombrello di garanzia per chi ha 63 anni si ritrova effettivamente senza più reddito, perché è espulso dal mercato del lavoro o perché è in condizioni di gravità. Diciamo che è un bel riferimento per quelli che dicono che in Italia bisogna lavorare fino a 67 anni. Ecco, questo è un canale abbastanza sicuro per lavoratori deboli che sono espulsi al mercato del lavoro e che avrebbero, se garantito strutturalmente, un bel paracadute per andare in pensione a 63 anni sostanzialmente. Un'ultima domanda: i limiti, perché abbiamo ricordato le caratteristiche, però il beneficiario dell'APE sociale può svolgere un'attività lavorativa purché i redditi non superino quale cifra? 8.000 euro se è una tipologia di lavoro alle dipendenze, 4.800 euro se è un lavoro autonomo. Sempre all'anno, autonomo, chiaramente. Sempre all'anno. E un'altra caratteristica è che, essendo una prestazione assistenziale, è assimilata a reddito da lavoro, come quando sei in cassa integrazione, per intenderci, per cui benefici delle detrazioni e delle deduzioni fiscali tipiche di chi ha un reddito da lavoro, incluso il bonus da 80 euro se non superi la soglia dei 26.000. E il bonus, mi chiedono gli ascoltatori, da 80 euro per reddit bassi resta, però? Esatto, sì, resta il bonus. Alla luce resta di quello che hai appena detto, infatti. Resta questa detrazione. Tieni conto che l'APE sociale non può superare i 1.500 euro lordi al mese e sono 12 mensilità, per cui rientri nettamente nella categoria 80 euro. Sì, 12 mensilità e non 13, come invece viene per la pensione. Grazie a Davide Colombo, poi rifaremo il punto quando i dati del Ministero, perché appunto come Davide spiegava c'è una doppia domanda che va fatta per capire prima se vi siano le condizioni, e poi la domanda vera e propria. La prima raccolta comunque si chiude il 15 luglio, noi abbiamo fatto il punto perché sabato è ufficialmente partita la cosa. Grazie Davide Colombo. Andiamo sul traffico e poi il mondo del commercio, rappresentato da Confesercenti, che vuol dire sostanzialmente 350.000 piccole e medie imprese del commercio, turismo, servizi, artigianato e industria, 1 milione e gli occupati, è intervenuto il ministro Calenda in maniera molto, non dico tranchant, ma molto chiara e diretta. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Io penso e continuo a pensare che la diminuzione delle tasse debba essere una diminuzione delle tasse sulle imprese e non generalizzata. E vi spiego il perché. Perché è vero, è verissimo che se noi oggi fossimo in grado di fare un abbattimento dell'IRPEF gigantesco rilanceremmo i consumi interni. Ma è anche vero che un pezzo, a parte che non siamo in grado perché i soldi non ce li abbiamo, se non ce li dà qualcuno non lo possiamo fare, ma anche fossimo in grado di farlo, si determinerebbe, uno, un pezzo molto significativo di risparmio, che infatti è aumentato e che non arriva a nessuno di voi, tranne forse alle banche e all'assicurazione. Due, perché si concentrerebbe per una parte molto rilevante sui beni importati e forse anche, giustamente, sull'online. Allora la priorità qui, che l'impresa sia grande, media, piccola, piccolissima, è abbattere il carico fiscale sulle imprese e costa immensamente meno che abbattere l'IRPEF. Il punto non è avere una legge simbolo che si chiama piccole e medie imprese italiane, una legge simbolo che si chiama statuto dell'impresa, ma avere dei contenuti cogenti che aiutino a fare le cose che ci serve di fare insieme. Perché se no noi finiamo imbrancati in un ragionamento che diventa un ragionamento che è solo di titoli e non è di sostanza. E mi creda, io sono politico pro tempore, come mi viene spesso ricordato da tutte le parti, e quindi lo posso dire con libertà. È il modo con cui vi fanno fessi da 30 anni questo. Il dire che ci sarà un tavolo, una legge, uno statuto, è il modo in cui vi fanno fessi da 30 anni. Oh, così il ministro Calenda, io non ho bisogno di fare nessun endorsement a Calenda, l'ho fatto 1000 volte, a lui, a Draghi, mi piace Calenda perché parla di cose che conosce, e sull'IRPEF e tasse d'impresa non l'ha mandata a dire. Devo dire che se fosse un programma politico dovrei anche notare che indirettamente era una critica bella e buona agli 80 euro di Renzi, perché il ragionamento fatto da Calenda su un taglio dell'IRPEF vale anche per gli 80 euro, cioè non è detto che ripartano i consumi perché parte finiscono nei risparmi se tu non sei sicuro del futuro, e comunque possono finire in consumi di generi importati o sull'online, quindi senza nessun beneficio per la platea degli esercenti e dei commercianti italiani. Chiedo se condivide questo giudizio e le faccio intanto in bocca al lupo e i complimenti alla neo presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie per gli auguri, me li prendo tutti. Eh beh, di questi periodi. Senta, De Luise, è d'accordo con il ministro Calenda? Cioè, anche se piace di più l'idea dell'IRPEF, in realtà costa tantissimo e ci sono pochi soldi, ma soprattutto gli effetti sono tutti da dimostrare, rispetto a una riduzione della pressione fiscale sulle imprese, chiaramente a partire anche dalle piccole e piccolissime imprese? Questa è una richiesta che noi facciamo da tempo, quindi non si può non essere d'accordo. Noi chiediamo più cose e poi sostanzialmente sono cose molto semplici. Insomma, quello che noi abbiamo affrontato nella nostra assemblea di oggi è rilanciare i consumi, la domanda interna. Perché? Perché abbiamo visto che con l'aumento dell'esportazione comunque non c'è stata una ricaduta, no? Sul PIL, sull'aumento dei consumi. Quindi vuol dire che se noi non riusciamo a dare stabilità e certezza alle famiglie, i consumi non possono ripartire. Dare certezza alle famiglie non vuol dire dare gli 80 euro, noi non diciamo quello. Noi diciamo di fare in modo che ci sia la possibilità di aprire posti di lavoro. E come fai a aprire posto di lavoro? Beh, se si pensa che oggi la pressione fiscale per le nostre piccole e medie imprese in Italia sfiora il 65%, mentre un'impresa nell'area UE paga 10 punti di meno, questo ci fa capire bene la differenza. Però mi scusi, Presidente, il cuore del problema. Presidente, allora io posso essere d'accordo, anzi lo sono, con Calenda che la parte IRPEF è molto pericolosa, a parte che devi farla molto significativa se vuoi un risultato, ma sugli effetti sui consumi interni vediamo, perché ripeto, uno può comprare beni importati e arricchire imprese di altri paesi e può metterli da parte se non si fida del futuro. Però una riduzione fiscale del carico fiscale sulle imprese avrebbe un senso alla luce di quello che lei dice, cioè per far ripartire i consumi, se tu riesci a far ripartire l'occupazione, Perché allora io, un conto è dire che tu mi dai 80 euro e ne faccio quello che voglio, ma se mio figlio o mia moglie o mio marito lavora, lì vado, sicuramente ne ho un beneficio sui consumi. Lei è disponibile a ragionare su una riduzione IRPEF a partire dai neoassunti, che è un po' l'ipotesi, vedremo poi quanto sostanziale, del governo? Ma certo che siamo disponibili a ragionare su questo. Noi chiediamo di ragionare proprio su questo e chiediamo proprio di diminuire l'imposizione fiscale sulle imprese, perché possono aprire posti di lavoro. Perché questo è, e se si riesce ad aprire posti di lavoro, si riesce a dare certezza a un numero maggiore di famiglie. È il nocciolo della questione, insomma. E non è che poi venga a costare chissà tanto, perché si deve aprire tutto un discorso. Sicuramente il nostro debito pubblico è molto alto, è molto elevato, però non possiamo pensare di indebolire tutto il sistema economico del paese solo tentando di coprire questo debito pubblico spremendo le imprese. Insomma, ecco, questo non può essere l'obiettivo. Sicuro che siamo disponibili, anzi, questa cosa è uscita fuori proprio questa mattina dalla nostra assemblea, e nei prossimi giorni inizieremo a lavorare su questi argomenti con il ministro Calenda. Allora, una risposta e l'ultima domanda. La risposta che mi dice, sì, ma insomma, sugli 80 euro sembra che tutti i problemi siano gli 80 euro. Non abbiamo mai detto questo. Guarda che però in tempi non sospetti, quando tutti erano molto d'accordo sugli 80 euro, noi dicemmo come radio, come quotidiano, che forse era meglio fare una riduzione del carico fiscale su imprese e anche lavoratori. Gli 80 euro non sono nessun male, il problema è capire se a fronte di quella spesa hai ottenuto un'efficacia nel risultato. Nessuno ha detto che sia male dare 80 euro, ma figuriamoci. Vabbè, capire se vi è stato qualche risultato. Molti ascoltatori però fanno notare che i commercianti sono pronti a chiedere queste cose, ma sul fronte prezzi ancora non ci siamo, e evocano il tema ancora dei prezzi, dopo il famoso passaggio lira-euro e quant'altro. Secondo lei... all'interno dei consumi resta ancora un problema dei prezzi? Allora, direi che questo è un annoso problema su cui ci stiamo avvitando da tanti anni, come giustamente diceva lei. Il prezzo è così fatto, e torniamo al discorso di prima. Un'impresa, per stare in piedi, cioè se io compro un prodotto e lo rivendo e devo pagare tutta quella roba lì per mantenere in piedi la mia impresa, le assicuro che il prezzo è determinato da quello, insomma. Ma non è nemmeno vero che l'impresa possa aumentare i prezzi indebitamente, perché il mercato sceglie, perché lei come libero cittadino può scegliere di venire da me o di andare da un'altra parte. Infatti l'online, insomma, l'online sta crescendo moltissimo, Presidente. Sta crescendo moltissimo, e per l'online noi chiediamo non di fermarlo, perché cresce, il mondo cammina. Però ci vogliono delle norme chiare. Non è possibile che ci siano delle imprese, tra l'altro poi le piattaforme andiamo a vedere dove sono, no? La ricaduta fiscale non viene certo ad agevolare il nostro paese, insomma, rispetto alle piattaforme dell'online. Però il problema è normare questo tipo di movimento. Lei sa che sull'online ci sono tantissime truffe? Sì, ma adesso ho capito. Quindi presente, abbiamo tantissimi problemi. Allora, sì, una normativa che chiarisca come avviene, perché se si gioca una partita si deve giocare con delle regole. Sì, però io lo dico con massimo rispetto, giocatela anche voi col mondo del commercio, magari non solo di retroguardia contro l'online, ma anche su licenze e quant'altro, perché l'online viene anche incontro a esigenze di un mondo che è cambiato, Presidente, glielo dico. Io so che su questo ho una posizione molto netta. Ancora il mondo del commercio ha licenze che irrigidiscono gli orari di apertura, di chiusura e quant'altro. Nessuno vuole far lavorare i suoi associati la domenica o sabato se non è necessario, ma qui si lavora anche domenica e sabato. Cioè, voglio dire, forse qualcosa, siamo oltre il tempo massimo, ma si può fare anche sul fronte interno della liberalizzazione, no? Mi dica solo sì o no. Certo che sì, ma infatti le dicevo che noi questo argomento lo abbiamo proprio affrontato questa mattina. Nessuno vuole imbrigliare l'online, anzi le dirò di più. L'online noi lo vogliamo utilizzare per mettere in rete tutte le nostre imprese, perché il processo di ammodernamento passa anche da quello. Allora, io le confermo di nuovo in bocca al lupo, grazie al neopresidente di Confesercenti Patrizia De Luise. C'era un Calenda sui corpi intermedi che mi interessa, ma lo ascoltiamo domani, sul ruolo dei corpi intermedi. Mi interessa un po' maliziosamente politicamente, anche perché anche questo è un po' diverso da quanto